Allora, chiedo asilo. Contribuisce, fai qualcosa, non so, cioè, chiedo asilo. Io. Senti qua, tutti i giorni alle 16:45, cosa, cioè sarebbe, adesso. Come una voce elettronica? Ma falla bene almeno, fai il robot, fai il robot. Chiedo asilo. No, aspetta, posso fare così, guarda. Chiedo asilo tutti i giorni su Radio 24 alle 16:45, cioè adesso. Sfira, sfira, sfira. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K, un saluto da Drago. Bambini, ragazzi, adulti, vecchietti, oggi è il primo giorno di primavera. Ma perché hai detto tutto al maschile? Bambini, ragazzi, adulti e vecchietti. E le bambine, le ragazze, vabbè, gli adulti e le vecchiette, ma dove le metti? Vabbè, ma Drago, se devo raddoppiare tutto non finisco più. Infatti una volta si diceva signore e signori. Sì, ma siamo in un asilo. Quindi bambine e bambini. Sì, ma ascoltano anche gli adulti, anzi, soprattutto, anche i vecchietti, anche gli adolescenti. Vabbè, no, andiamo avanti, dai. Primo giorno di primavera. Viva e viva! Natura ha ufficialmente il diritto di risvegliarsi. Oggi, infatti, non è più vietato agli alberi di fiorire e agli uccellini di cinguettare. Da oggi i tramonti possono tingersi di rosa, come il mio maglioncino, e le temperature diventare sensibilmente più dolci. I miracoli del governo tecnico. Ci sono tante fragoline, rosse piccoline, ci son tante pecorelle, tutte bianche, tutte belle, ci son fiori nei giardini, ci son tanti pesciolini, tutto questo sai perché? Conta 1, 2, 3, conta 10, conta 20, conta tutti quanti i denti, conta conta tamburino, che il nemico è qui vicino, poco male ci farà se nel cielo volerà, volerà, volerà, se giochiamo in compagnia il nemico scappa via. Canta, canta, scrivi sulla carta bianca, io ti scrivo e ti rispondo, ho girato tutto il mondo fino al giorno 23 a star sotto, tocca proprio a te. E ora, bambini, ricreazione. Ma riunione, riunione, e poi non ce ne sono? Cioè, io non capisco. Ma cosa c'è, bambino Alberto? Come al solito, sono l'unico a prendere le cose seriamente. Perché oggi era prevista una riunione della società segreta Negroni, no? Ah, società segreta, se lo dici così, che segretezza è? Ma cioè, sì, anche sono cose tra bambini, no? Sì, ho capito. Voi potete anche saperlo, tanto non capite niente, no? Tu vedi come ci percepiscono i bambini, capo? Giustamente pensano che tu non capisca niente. Ma cioè, non ti stupire, anche di te pensa la stessa cosa. Cioè, avete forse la pretesa di capire in qualche modo noi bambini? Non so, siamo qui da anni che. No, di solito siamo noi bambini, adulti che pensiamo che i bambini non capiscano niente. Quindi diciamo, allora, che se questa. Questo è un vecchio equivoco, che mi sembra che è strano che continui, perché io mi chiedo, ma gli adulti, cioè, non si ricordano proprio niente di quando erano bambini loro? Sì, qualcosa te lo ricordi, fatalmente, però non siamo più bambini, quindi è impossibile ricordare davvero come eravamo. Sì, se te lo ricordi, tutto filtrato dal ricordo, non lo sei. Ho perso il filo. Eravamo È tutto difficile da capire. Vedi che pensi subito che io non capisca. Vabbè, perché non capisci. Ma vuoi dire che hai capito il ragionamento? No, ma nemmeno K ha capito. Come ha detto la frase, ma non ha capito. Vabbè, quindi l'ho detta tanto per dire. E perché no? A me sembra che gli adulti non facciano altro che ripetere cose inutili senza senso. Adesso arriva. E poi, perché poi quando c'è da capire le cose più elementari, allora non le capiscono. Uh-huh. Cioè, tipo, quando si fermano a parlare con gli altri adulti, no? E stanno lì mezz'ora. E ci dicono, e noi vogliamo andare a casa, no? Noi bambini. Sì. Adesso andiamo. E poi passa una mezz'ora. Sì, adesso andiamo, aspetta un attimo. Lo dico anche a Tito, okay. Adesso andiamo fuori, Tito. Sì, stai calmo. Sì, ma siccome io non sono un bamba, io so già che non è vero che adesso andiamo. E allora perché lo dicono? Ma vabbè, ma è così per tranquillizzarti, no? Così, un modo per... No, e poi l'aggravante, perché, e soprattutto, perché stanno lì un'ora a parlare di cose senza senso? Mentre io sono lì, che mi sta scoprendo la vescica, e in più mi rompo le palle della noia. Sì, ho capito, però tu ad esempio pensa che quando tua madre ti porta, che ne so, alle giostre del parchetto, no? per lei è la stessa identica cosa, cioè tu le dici faccio ancora un giro, poi dopo ne fai altri 10 e lei lì che si annoia. Ma come si annoia? Certo che si annoia, Ah, ma allora anche gli adulti si annoiano? Ma cioè, ma cosa credevi? Ma no, ma io credevo che per gli adulti fosse impossibile annoiarsi, ma no? Scusa, una roba. Tu, non ho capito, tu non hai mai visto tuo padre annoiarsi mentre tua madre e le sue amiche parlano di ortaggi biologici, no, dei cetrioli biologici? Ma non so, perché, a caso. No. Perché i cetrioli? Non lo so, le carote. Carote. E no, perché lui tanto si mette a giocare alla PlayStation? Quindi... Famiglie di oggi, una volta il marito avrebbe bevuto l'amaro in tavernetta, infatti al caminetto, sì, con gli altri, con gli amici, dei mariti, delle amiche, della moglie. Della moglie, sì. Ma quali mariti? Ma non lo so. Le amiche di mia madre sono tutte sole. Ah, e come mai? Vabbè, ma le avete viste? E soprattutto le avete sentite? No, no, vabbè, no. Ecco, se le vedeste capireste. No? Sono brutte. Sono bruttissime, vecchissime. Vecchissime. Femministe. Ah, beh, allora sì. Le hanno tutte. E poi tutte divorziate? Tutte divorziate, incazzate nere con gli uomini, tutti gli uomini. Allora tuo padre, io direi che fa bene a togliersi dai piedi quando ci sono queste, perché sennò rischia di essere linciato solo perché è un maschio. Potrebbe bersi l'amaro anche da solo in tavernetta, comunque. Invece no. Se non avesse la PlayStation, scusa, bambino Alberto, dovrebbe starsene lì con tua madre, con le amiche femministe, e anche lui si annoierebbe, vedi? E quindi la noia anche da adulti è sempre lì in agguato. Specie adesso che c'è la crisi, bambino Alberto, ci sono un mucchio di adulti in questo periodo che si annoiano a morte, si non sanno cosa fare. La mattina non sa cosa fare, vanno a giocare alle macchinette, alle slot machine. Vabbè, ma allora è un pacco. Io volevo diventare grande per non annoiarmi più. Sorpresa, niente, non è così. Trovati un altro motivo per crescere, perché quello lì non funziona. Vabbè, ma quale? Domanda difficile, anzi, direi impossibile. Un po' filosofico. Un po' filosofia. Sì, ma lo vedete che allora che i grandi non sanno dare le risposte più importanti? Vabbè, voglio vedere. Voi sicuramente sapete dirmi quanti pianeti ci sono nel sistema solare. Cosa, tra l'altro, che mi è totalmente, cioè, non me ne frega, non potrebbe fregarmi di meno. Chiuso parentesi. E poi non sapete dirmi perché vale la pena crescere. Cioè, che mi sembra una cosa molto più importante, no? Niente, no, niente. Niente. Dobbiamo andare, bambino Benga. Dobbiamo come andare? Sì, è suonato. Vabbè, la risposta? E voi fate come al solito. Su più bello, ciao ciao, dobbiamo andare. Ma non preoccuparti, ma bambino Alberto, guarda, quando sarai grande anche tu, potrai farlo. Avrai un bambino che ti farà un mucchio di domande. Signor Spinelli, no. E potrai toglierti l'immensa soddisfazione di non dargli risposta e di mollarlo sul più bello. Ecco, ecco, questo è un bel motivo per crescere. Però siete un po' stronzi, No, siamo adulti. Adulti. E adulti. Oh, questo qua è l'audio del video che noi stiamo vedendo, che ci ha mandato Tony Landolfini. Landolina, e potete vederlo anche voi. Allora comincia campo estivo, folla di bambini, picco in bagno. Io sono uno che sbattimento, nuova sbattuta, la folla, la turca, corsa campestre, fa vedere tutto, anche il latte stracotto. E poi c'è la foto del bambino Alberto. Resto a casa da solo, se per voi non c'è problema. Problema di matematica. Rimane, ecco, per con la voce che mi trema, cantante con la bocca aperta, mamma, papà, il bambino, faccia la pietà di Michelangelo, pena, anguria, e soldi, tutti 50 euro. Il problema stavolta sono gli scacchi. Fantastico questo video, andatevelo a vedere su YouTube. Adesso che siamo in radio, non facciamo come certe trasmissioni che ci precedono, che fanno tipo mezz'ora di trasmissione descrivendo una foto. Sentiamo la musica. Non mi portate dalla notte campagna, mi sento male. C'è un caldo che ammazza, una noia infernale. La lunga sto già che mi rompo i coglioni. Fate come se io non ci fossi, godetevi la vostra vacanza. Quindi è deciso, per quest'estate io resto a casa da solo. Questo video grazie, di Tony Landolfini. Non sono per me gli applausi, per Tony Landolina, non Landolfini. Landolfini. Vabbè, non è comunque, bellissimo questo video. Aspettiamo altri video anche della stessa canzone, ma se no ce ne sono tante tra cui scegliere. C'è Finocchi Cotti, Lampascione, L'Orfanello. L'Orfanello. Volentierissimo. White Christmas. Sì, no, cioè, White Christmas non c'è. Cosa scrivici? Sì, non c'è. Non lo so, io stavo improvvisando. Allora, stai improvvisando, sì. Vabbè, dai. Sulle canzoni non si improvvisa, le canzoni sono scritte e registrate.